cartellone di Elisabetta Fiorito. Professor Amaldi, buongiorno innanzitutto e benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie. No, grazie a lei. Allora, ma entriamo subito in questo nostro talk show dedicato al caso Majorana, il caso di questa scomparsa incredibile del 26 marzo del 1938, questo genio della fisica scomparso in quel periodo. Allora, ce lo vuole innanzitutto descrivere fisicamente com'era? Beh, sì, Ettore era alto, era smilzo, aveva questa andatura timida, quasi incerta. Aveva questi capelli nerissimi, la carnagione scura, le gote erano lievemente scavate e poi aveva questi occhi vivacissimi, scintillanti. Insomma, ecco, direi che nell'insieme aveva l'aspetto di un saraceno. Ah, l'aspetto di un saraceno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a Cartellone. Abbiamo sentito un brano di una pièce molto divertente, ma anche che fa riflettere, che sarà in scena al Teatro Vittoria di Roma il 2 marzo, martedì prossimo. E abbiamo sentito nei panni del presentatore Christian Ginepro e nei panni del professor Edoardo Amaldi, il nostro amico oramai di Cartellone, Stefano Messina, e per una pièce scritta da Claudio Pallottini. Buongiorno anche a Claudio, ci sono venuti a trovare. Grazie. Qui a Radio 24. E Claudio, tu invece interpreti lo storico e ti sei ispirato proprio al saggio di Leonardo Sciascia. Sì, l'ispirazione nasce da lì, dalla scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia, un libro meraviglioso. Poi dopo c'è stata tutta una ricerca intorno proprio al personaggio Majorana, quindi tutti i libri e anche le trasmissioni televisive che sono state fatte su di lui, il film D'Amelio, I ragazzi di via Panisperna, e da questo studio intorno al personaggio poi è nata una pièce teatrale con l'idea di ambientarla all'interno di un moderno talk show, unendo i personaggi del passato, quindi Enrico Fermi, Edoardo Amaldi dei ragazzi di via Panisperna, la moglie di Enrico Fermi, insieme a dei personaggi che noi vediamo quotidianamente nei teleschermi, cioè lo psichiatra, il tuttologo, lo storico, che intervengono a pagamento, a cachet, per parlare del personaggio oppure per far venire fuori una polemica, una piccola polemica di questo tipo. Il caso Majorana è stato veramente irrisolto, perché poi questo fisico scompare, non si sa se si è suicidato, non si sa se si è ritirato in un convento, scompare perché, e qui la pièce diventa anche una pièce di riflessione, un momento di commedia ma anche di riflessione, perché probabilmente aveva scoperto la bomba atomica o si andava verso quella scoperta. Esatto, questa è la teoria di Leonardo Sciascia, suffragata da alcune testimonianze della sorella di Ettore Majorana, che dice che l'ha sentito spesso riferire il fratello: la fisica è su una strada sbagliata, i fisici sono su una strada sbagliata, ma Dio non può volerlo. E chiaramente è una speculazione che lui abbia nel 37-38 già fosse arrivato alla scoperta della bomba atomica, perché poi è stata fatta molto più avanti. Però lui era un genio e quindi come tale poteva aver visto tranquillamente le evoluzioni. Fermi aveva scoperto la fissione ma non era riuscito a chiamarla fissione nucleare, invece Ettore Majorana dice: noi le stiamo cercando, abbiamo scoperto la fissione. Allora, in tutto ciò c'è Christian Ginepro che fa il presentatore, ma che cosa scopriamo di Ettore Majorana, per esempio? Ma guarda, scopriamo veramente, diciamo, passiamo dal serio al faceto, no? Nel senso che scopriamo da cose fondamentali, importanti anche per la storia del nostro paese, a cose forse anche importanti per la storia della nostra comunità europea, per esempio i gusti del gelato che piacevano ad Ettore Majorana. Gelato al cioccolato. I gusti che piacevano ad Ettore erano fragola, limone e cioccolato. Io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu. Non chiedo di più. Profumo di fiori di tiglio. Fa caldo ma qui si sta meglio. Allora, torniamo a questo nostro talk show sul caso Majorana. Professor Amaldi, lei era veramente un amico intimo. Sì. di Ettore Majorana. Diciamo, facevate parte del gruppo dei ragazzi di via Panisperna. Beh sì, noi eravamo i famosi ragazzi di via Panisperna. Io conobbi Ettore all'età di... io avevo 22 anni, lui ne aveva 20, nell'atrio della facoltà di fisica, nell'istituto, dove venne appunto per incontrare Enrico Fermi, perché lui voleva passare dal secondo il Segre, Emilio Segre, che era un altro dei ragazzi di Villa Panisperna, e passare dalla facoltà di ingegneria dove era iscritto a quello di fisica. Ci vuole raccontare qualche piccolo aneddoto? Come vi divertivate, diciamo, durante le giornate lunghe di studio? Noi giocavamo, per esempio, studiavamo tantissimo la letteratura perché si chiamava Shakespeare, si chiamava Pirandello, però giocavamo anche nel corridoio dell'atrio a palletta, uno di fronte all'altro, e chi faceva per prima gol. Benissimo, a palletta. Beh, insomma, perché? Abbastanza, ecco. Un momento anche divertente perché è sì, anche perché giocano in diretta a palletta. Ah, è vero, giocano anche in diretta. Esatto. E poi ricordiamo poi che, per esempio, Stefano fa Edoardo Amaldi, abbiamo sentito il romagnolo, che cos'è, Emiliano? Piacentino. Sì, questo sarebbe Piacentino, me ne vogliono scusare tutti i piacentini perché io in realtà, ecco, mi sono inventato insomma un po' un dialetto. Certo, diciamo, cioè, non so quanto sia piacentino. Poi c'è Enrico Fermi che parla in romanesco. Romanesco perché era romano. Era romano. Quindi ogni personaggio poi parla in maniera diversa. Tutto sì, ciò poi inizia... c'è Stefano Altieri, che è il capo della polizia fascista, ecco, dell'epoca, Arturo Bocchini, e quindi è di origine napoletana e parlerà dialetto napoletano. Parla in italiano però con intanto una cadenza, insomma, un suono partenopeo. Anche perché inizia tutto quanto con questo commissario che si chiede, anzi che praticamente ha delle pressioni per scoprire che fine ha fatto Ettore Majorana. Esattamente, le pressioni di Mussolini al tempo di Giovanni Gentile, il filosofo, che dice: è la mente più eccelsa che avevamo nel mondo della fisica, vogliamo ritrovarlo, che fine ha fatto? Poi c'è la moglie di Fermi, che è interpretata da? Da Cristina Pellegrino, Laura Fermi, appunto, che Enrico Fermi abbandonerà l'Italia all'indomani del premio Nobel, invece di ritornare in Italia, una volta ritirato il premio a Stoccolma, andrà in America e poi lì parteciperà con Oppenheimer alla creazione della bomba atomica. Quindi aveva ragione Majorana. Sì, la moglie era ebrea. Sebastiano Colla. Allora... Ettore, ma questo spettacolo che adesso va in scena martedì al Teatro Vittoria, poi pensate di portarlo anche in giro per l'Italia? Beh, se ci regge il fisico. Essendo fisici. Ok. E un'altra cosa che noi volevamo capire, Cristian, sì? A un certo punto c'è tutta un'interpretazione particolare sulle sigarette e sui pacchetti di sigarette che usava Ettore Majorana. Ma sì, diciamo che questo è uno dei tantissimi momenti in cui questo talk show, che dovrebbe essere una cosa molto seria organizzata da me, invece diciamo viene distrutto continuamente, perché qualsiasi cosa che io faccio per mettere in scena questo talk show viene rovinata dai miei ospiti. Per esempio, mostro una foto di un pacchetto di sigarette e questa foto non va bene a nessun ospite. Faccio una piccola dichiarazione e tutti mi danno contro, partono balletti di canzoni, è veramente esilarante. Io te lo posso dire, mi posso permettere, signori che sono qui presenti davanti a me, io l'ho visto l'anno scorso questo spettacolo, perché questo spettacolo lo faceva Marco Simeoli, che è il nostro regista. Fortunatamente sta facendo un altro spettacolo e allora l'hanno chiamata a sostituirlo. E quindi ora io mi sento un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono entrati in questo spettacolo che avevo visto e adorato l'anno scorso. E quindi, ragazzi, venite a vedere perché c'è da morire da ridere. E lo fa gratuitamente. Ah. Ha detto tutte queste cose meravigliose facendolo. Meno male, Claudio. Ecco. Allora è importante questo. Allora, ricordiamo: per ridere ma riflettere, da martedì prossimo al Teatro Vittoria di Roma fino al 14 marzo, il caso Majorana. Grazie a Claudio Pallottini, grazie allo storico. Il presentatore ci vuole salutare, Cristian? Sì, beh, ragazzi, io presento questo spettacolo e quindi siate molto presenti anche voi a questo spettacolo. E professor Amaldi? Il professore Amaldi dice: niente, venite perché sicuramente scoprirete tutti i segreti della bomba atomica e potrete farne anche una in casa vostra direttamente, perché la cosa è molto semplice per le vostre suocere, per le vostre mogli, insomma. È un art attack. Questo spettacolo è una bomba, veramente. Cartellone. E adesso andiamo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove da giovedì fino al 7 marzo va in scena una rassegna un po' particolare, Vertigine, il nuovo teatro italiano, ovvero giovani compagnie, giovani attori, artisti che si sfidano con progetti drammaturgici originali selezionate su 420 progetti presentati in tutta Italia. La direzione artistica artistica è di Giorgio Barbiero Corsetti. Buongiorno Corsetti. Buongiorno. Allora, da giovedì quindi l'Auditorium Parco della Musica di Roma diventa un po' il centro di tutta la drammaturgia italiana contemporanea. Sì, abbiamo presentato questo festival alle giovani compagnie italiane, al Teatro Emergente, e sono arrivati tantissime proposte, ne abbiamo scelte 15 e verranno da tutto il mondo operatori, direttori di teatri, direttori di festival che comporranno una giuria che darà un premio alla compagnia che riterranno più interessante per il lavoro, per la drammaturgia. E la cosa incredibile è che esaminando le proposte ci siamo resi conto, come sospettavamo sia io che Graziano Graziani che mi ha aiutato in questa impresa, pur essendo il teatro in una grande crisi, difficoltà di spazi, di economie, la creatività è fortissima e ci sono delle proposte veramente molto interessanti a tutti i livelli. Ci sono spettacoli visionari, ci sono spettacoli molto molto divertenti che comunque scavano in profondità, ci sono spettacoli invece dolorosi e tragici. C'è una ricchezza di proposte incredibile, una grande capacità dei giovani artisti di guardare al mondo che ci circonda in maniera molto originale e piena di capacità di interpretarlo. E si parte da giovedì 4 in Sala Petrassi con Voilà di Vincenzo Schino, ma poi vedo anche sempre giovedì, a proposito di creatività, un titolo particolare, Dux in scatola, autobiografia d'oltretomba di Mussolini, Benito di Daniele Timpano, che sarà al Teatro Studio alle 19.30. Insomma, poi vedo anche giovedì ci sono vari orari e vari spettacoli, quindi noi consigliamo proprio di andare nel sito dell'auditorium www.auditorium.com, perché insomma ci sono dei titoli particolari, Caravan Kermesse, Motel, Faccende Personali, Prima Stanza, I Will Survive, tratto da Gloria Gaynor probabilmente, e insomma tantissimi spettacoli fino a domenica, quindi basta veramente capitare dalle parti di Roma per ricordarsi di andare all'auditorium. Io consiglio un'immersione totale nell'arte contemporanea del teatro in Italia. Giorgio Barbiero Corsetti, grazie. Auditorium Parco della Musica, ricordiamo, per chi è a Roma, ma per chi si trova anche a passare a Roma il weekend, dal 4 al 7 marzo, una rassegna Vertigine proprio sul nuovo teatro italiano. Immergiamo in questa caotica atmosfera del jazz, sì, e grazie a Charles Mingus, per presentarvi Crossroads, un festival del jazz in tutto il territorio dell'Emilia Romagna. L'esordio è proprio questo sabato e si tiene fino al 23 maggio. Sandra Costantini, direttore artistico, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Crossroads dà un po' l'idea di motociclisti che con i loro strumenti di jazz vanno di città in città, di paese in paese. Che succede? Sì, beh, intanto già il termine stesso crossroads, no? Significa incroci, e l'incrocio, si sa, è il luogo, il punto dove le culture si incontrano, dialogano e creano. Quindi non poteva esserci un nome migliore per rendere l'identità di questo festival, che si può dire che sia unico in Italia per estensione temporale e territoriale, perché copre l'arco di 3 mesi di programmazione, coinvolge 17 città dell'Emilia Romagna, dalle grandi città ma anche i piccoli centri, quelli minori che di solito sono esclusi, no, dai circuiti culturali. E continuando a dare i numeri, possiamo dire, è l'undicesima edizione, ci saranno 32 serate di concerto con 40 gruppi e ben 188 musicisti. e offrirà uno spaccato proprio a tutto tondo, no, della scena jazzistica attuale, con attenzione sia alla tradizione, ai grandi del passato, ma anche al nuovo e quindi ai giovani di oggi che vengono alla ribalta. Ecco, nella maggior parte dei casi gli eventi si accumulano nel weekend, da giovedì fino alla domenica. Ecco. Ma sì, diciamo che un po' tutti i giorni sono, come dire, rappresentati. Ci sono anche dei lunedì, dei martedì, dei venerdì, cioè non è... Siamo democratici in tutto e per tutto, dalla trasversalità delle proposte musicali a quella dei luoghi in cui vengono ospitate, a, non so, appunto alla caratura degli artisti, i più noti, i meno noti, vecchi, giovani, donne, uomini, neri, bianchi, cioè voglio dire, non ci sono... Italiani, anche vedo una presenza italiani, cospicua di italiani, diciamo quasi tutti gli italiani noti e rappresentativi di un jazz che è sempre in continua crescita, quello italiano, si sta facendo valere nel mondo. Ricordiamo, per chi è in Emilia Romagna, ma per chi si trova anche a transitare in Emilia Romagna, da questo weekend fino al 23 maggio, dalle 21:15 in quasi tutte le città di questa splendida regione. Grazie Sandra. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata. They call me not hero, the wisest girl on earth. At home my pianola is love for all it's worth. The voice of love, my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. They call me not hero, the wisest girl on earth. At home my pianola is love for all it's worth. The voice of love, my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. Lola, Lola! Lola, come non ricordare Lola, la magnifica Marlene Dietrich che cantava Mi chiamo Lola, ma non solo, cantava tantissime cose perché era un personaggio strepitoso. E proprio per celebrare questa grandissima attrice e anche grandissima cantante, perché ricordiamo che il suo boom fu con L'Angelo Azzurro, che era una sorta di musical dell'epoca, abbiamo uno spettacolo che andrà in scena il 2 marzo a Torino, per poi andare a Roma, Milano, Bari, con Riccardo Castagnari, che abbiamo sentito cantare perché la voce era quella di Riccardo, Il ritorno di Marlene. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti. A confrontarsi con la diva, come ci si confronta in questo ruolo, poi un po' antravestì, diciamo? Sì, anche se non amo molto la definizione antravestì, perché questa è proprio un'operazione attoriale, nel senso che è un attore che si cala in un personaggio di sesso opposto e piano piano ci si dimentica che è un uomo che la interpreta. Quindi diciamo che ho coniato un termine nuovo che si chiama actor queen, cioè un attore che interpreta le regine, che è più specifico, è quasi un'operazione elisabettiana, quando le donne erano interpretate soltanto dagli uomini. Marlene Dietrich è stato un personaggio molto molto importante, anche perché è stata una delle pochissime a ribellarsi al Terzo Reich, no? Certo. Quindi è stata una rivoluzionaria, insomma, lei a un certo punto emigrò in fuga dal nazismo e prese sempre le distanze. Sì, diciamo che lei in America ci è arrivata molto prima, lo dico anche nello spettacolo. Io sono nata in Germania e sono diventata cittadina americana molto tempo dopo, quando nel mio paese stava imperversando la follia del nazismo, ma non ho tradito la mia patria, ho detto no a Hitler, il che è molto diverso. E in queste parole c'è proprio tutto il concentrato di quello che lei ha fatto, perché Hitler la voleva addirittura come interprete, come simbolo, come attrice simbolo dell'impero nazista, e lei ebbe il coraggio di dire di no e di prendere le distanze, perché anche andava incontro a possibili rappresaglie da parte di un regime molto potente e pericoloso dell'epoca. Tra le altre cose ricordiamo che lei era la cantante di Lili Marlene, che era la canzone che cantavano i soldati tedeschi in guerra, mentre poi Hitler si dovette accontentare, diciamo, di Zara Leander, ecco, questo fu... Sì, Marlene, di un'altra... grazie a Marlene, diciamo, è diventata poi una canzone oltre ogni confine, perché è stata stata tradotta in 39 lingue ed è diventata la canzone dei soldati in generale, al di là di ogni bandiera, di ogni colore, di ogni nazionalità. Sentiamo un attimo un brano di Lili Marlene, proprio cantata da Marlene Dietrich, Riccardo. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Allora, abbiamo sentito Marlene Dietrich, appunto, con Lili Marlene. Passiamo quindi a Riccardo Castagnari, che invece la interpreta in questo momento a Torino, al Teatro Erba, dal 2 al 14 marzo, e poi ricordiamo al Teatro Vittoria di Roma dal 16 al 28, poi Milano, Bari. Insomma, una tournée abbastanza corposa. Riccardo, cosa vuol dire per te interpretare una donna? Beh, interpretare una donna come Marlene, poi, oltretutto, perché siamo proprio alla quintessenza della femminilità e del glamour e dell'eleganza. Diciamo che era un'operazione abbastanza impegnativa e difficile, però, insomma, grazie a tutta una serie di cose che si sono incastrate in modo giusto, è riuscita, tanto che poi abbiamo anche avuto un premio a Parigi come miglior spettacolo dell'anno. E questo lo dico perché comunque è quello che poi mi consente anche di ritornare in Italia in un certo modo e con una certa tournée ben nutrita, ecco. È particolare perché a un certo punto proprio sembra che Riccardo, sotto le spoglie di Queens, perché poi c'è anche il nome d'arte, si faccia da parte e arrivi proprio lei, Marlene, con tutta la sua, col suo glamour e la sua prepotenza di scena, quasi, ecco, che arrivi lei. E questo devo dire anche il pubblico che lo dice, e questo vuol dire proprio che l'operazione è riuscita. Insomma, non dovrei essere io a dirlo, ma è uno spettacolo che va avanti da 9 anni, non per niente. Insomma. E allora noi sentiamo proprio tu che interpreti una delle più belle canzoni di Marlene Dietrich, se non la più bella, ricordando che sei in scena a Torino al Teatro Erba fino al 14 marzo, dal 2 al 14 marzo, Ich bin von Kopf bis Fuß aus Liebe angestellt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt, denn das ist meiner Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Schwärm ich immer denn das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I just can't help it. Cartellone. Sono mana ci laulo da la no canaiki la no canaiki dalle come pare no rui me dalle come e questa magnifica atmosfera è quella che si respira in questi 10 giorni in Val Senales a 3200 metri, sì, proprio sul ghiacciaio, con strumenti completamente realizzati con il ghiaccio. E quello che avete sentito era una kermesse addirittura norvegese. Buongiorno Monica Gamper, responsabile di questo magnifico festival, Ice Music Festival. Buongiorno, buongiorno. Sento già le prove per questa sera, perché si giusto. Parte stasera. Oggi pomeriggio, sì, alle 2:30 parte il primo concerto. Ah, ecco, allora, quindi le persone devono arrivare a Merano, in provincia di Bolzano, e poi raggiungere la Val Senales. Oppure chi è già in vacanza può venire a sentire questi magnifici suoni. Giusto, esatto. Allora, che cosa succede al Duomo? Voi vi incontrate all'Ice Dome e si inizia a suonare alle 14:30, poi si va avanti con alle 17:00, addirittura io vedo concerto serale con discesa a valle per sciatori avanzati, quindi ecco. Si sente la musica e si scia. E si ha ancora qualche bevanda calda e poi scendiamo tutti a valle con gli sci e con gli snowboard. Con gli sci e gli snowboard, quindi, e poi queste magnifiche cioccolate, no? Che sono tipiche della montagna, il vin brûlé, il modo per riscaldarsi però anche con la musica di ghiaccio. Sentiamo un altro pezzettino. Ecco, io leggo che in questi 10 giorni di festival c'è anche la nota arpista norvegese, ora per noi profani non è così nota, però immagino che lo sia, Sidsel Valdstad, e poi anche quindi membro della Norwegian Opera Orchestra. Ma che cosa vuol dire suonare con il ghiaccio, Monica? Ecco, suonare con il ghiaccio vuol dire avere gli strumenti costruiti di ghiaccio, quindi avremo 2 arpe di ghiaccio, sono proprio qui davanti al palco perché stanno recitando e vedo le bellissime arpe di ghiaccio, vedo un xilofono di ghiaccio, un corno addirittura di ghiaccio del ghiacciaio e uno strumento particolare a percussione, e quindi è il ghiaccio stesso che risuona con suoni cristallini e quasi sferici. Quindi un'atmosfera molto molto suggestiva, molto particolare. Ma non hanno paura che questi strumenti di ghiaccio si possano rompere? Ovviamente ci vuole tanta attenzione anche nella costruzione, che ha messo qualche giorno la costruzione agli stessi di portare qui il ghiaccio all'Ice Dome, portarlo dai laghi. Ci è voluto tanta attenzione per non finire male già dall'inizio. Allora ricordiamo all'Ice Dome della Val Senales, Ice Music Festival, dirigiamoci verso Merano e poi possiamo sciare, ascoltare buona musica e appunto immergersi in queste atmosfere di ghiaccio. Grazie Monica. Grazie a voi. Chi l'ha detto che si può fare surf solo sul mare? Come abbiamo sentito, l'Ice Music Festival prevede anche delle discese con gli sci e con il surf. Ma noi attraversiamo tutta l'Italia per arrivare in Sicilia, dove in questo weekend c'è il Sicily Battle Games, fuoco, neve e mare. Tutti i riders del sud Italia sono infatti invitati a surfare sulle pendici del vulcano più alto d'Europa, che modesta parte sta in Italia e si chiama Etna. Allora, buongiorno Luca Garofano. Buongiorno a voi. Allora, che cosa succede? Voi andate sull'Etna, dove si scia, è anche una stazione sciistica, prendete i vostri surf e sfidate la natura? Esatto, più che surf, snowboard, anche se bisogna dire con il caldo che sta facendo in questi giorni, la neve si sta pian piano trasformando in grandi pozze d'acqua, quindi sì, forse è il caso che tra poco prendiamo il surf e prendiamo lo snowboard. Allora, praticamente partite, quindi qual è l'altezza dell'Etna? Allora, Allora, l'altezza massima del vulcano è di 3.350 metri circa. La stazione si trova a quota 1.008. Noi saremo a quota 1.008 per dare la possibilità a tutte le persone di poter assistere al Sicily Battle Games senza ricorrere all'utilizzo di seggiovie o impianti particolari che richiedono magari anche l'utilizzo della tavola. Quindi tutti invitati, anche chi non è proprio esperto di degli sport invernali, sci e snowboard. Anche perché diciamo 3.300 metri non è il caso di andare, visto che l'Etna è anche un vulcano attivo, no? Beh, è meglio fermarsi a 1.800 metri. No, ma ti dirò, guarda, 3.000, cioè l'Etna viene presa ogni anno da tantissimi turisti che praticano sci ed escursioni varie, salgono anche fino in quota, e in estate viene anche effettuato un servizio di escursioni che porta proprio i vari utenti sui crateri sommitali del vulcano. Durante l'inverno troviamo anche appassionati che piano piano con le pelle di foca riescono ad arrivare fino ai crateri sommitali. Tranquillamente, sempre con la dovuta cautela, ma ricordiamo che questo è veramente un capolavoro della natura. Vedo anche, poi ti confesserò adesso, Luca, che ho la mia assistente Gloria Guerrera, che è di Catania, quindi mi sta controllando affinché io dica tutte le cose precise, capito? Allora, ricordiamo le pendici dell'Etna per scoprire una Sicilia sicuramente invernale un po' diversa, e abbiamo visto come dall'Ice Music Festival in Valsenales in provincia di Bolzano siamo passati addirittura alla Sicilia col Battle Games. A che ora è l'appuntamento? L'appuntamento è per tutti dalle prime ore della mattina, quindi dalle siete 9. Già in attività, siete già in attività. Esatto, siamo già in attività. Domani aspettiamo tutti quanti dalle 9 in poi per tutta la giornata. Perfetto, quindi sabato e domenica Sicily Battle Games. Allora uno fa lezione e gli altri fanno casinato. No, dico sul serio, facciamo lezione noi. E quello che fa la lezione migliore vince un bel barattolone di marmellata. Siamo al Teatro Italia, dove è in scena Nemico di classe, una nuova commedia messa su da The Kitchen Company, sempre di Williams. E in questo caso ci sono sei ragazzi rinchiusi per alcune ore dentro un'aula di una scuola in attesa dell'insegnante, che però non si vede. Di nuovo una commedia di denuncia, come è stato The Kitchen, sì. E noi abbiamo il capo banda, il capoteppista qui proprio seduto in platea poco prima di andare in palcoscenico, Iron, interpretato da Nicola Nicchi, che è un po' il protagonista di tutta questa genga. Sì, diciamo che sono appunto il capobranco della classe, però siamo comunque sempre tutti e sei in scena, essendo isolati in questa classe, quindi non c'è un vero e proprio protagonista. La storia appunto di questo testo inglese, che è del 1978, scritto da Nigel Williams, racconta proprio la vicenda di questi ragazzi che sono chiusi in questa mattinata nella scuola in attesa di un professore che non arriverà perché tutti i docenti hanno rinunciato ad insegnare qualcosa a loro, essendo dei ragazzi violenti, disagiati e difficili da gestire. E nell'attesa di questo professore, questi sei ragazzi innescano uno strano gioco che poi durante la commedia vedrete andrà alla deriva, che è quello di farsi lezioni da solo. Questo meccanismo appunto crea una cosa strana, perché ogni ragazzo racconta qualcosa a cui lui piace fare, ovvero la sua lezione. Però questo diventa un pretesto per aprirsi verso gli altri, e questo creerà cose nuove all'interno della classe, all'interno delle dinamiche di questi sei ragazzi. La maggior parte dei rumeni viene dalla Romania. Quelli che arrivavano qualche anno fa erano clandestini, ora un po' meno. Fanno tutto un rito prima di venire qua, capito? Hanno queste foto di boss fini che buttano a terra e ci pisciano sopra. E poi tirano fuori i passaporti che gli ha dato la sinistra e dicono delle parolacce, e poi arrivano qui. E arrivano qui perché loro si infilano dentro i container, nei buchi. Ah no, si aggrappano alle parti, capito? Stanno aggrappati ai gommoni e trattengono il fiato. Qualcuno affoga. Affoga, dalla Romania affoga. No, bravo, infatti quelli erano gli albanesi, i neri, bravo, bravo, molto bene. Iron che cosa insegnerà? Iron appunto farà l'ultima lezione e sarà la sconfitta di questo personaggio, di questo falso leader che tiene su la sua, il suo ruolo solo con il terrore verso gli altri, e insegnerà una lezione di violenza. Quindi un po' duro, no? Come insegnamento, perché Williams, voi avete fatto già The Kitchen, che pure era un testo abbastanza dove c'erano i contrasti etnici dell'epoca, magari era in una commedia degli anni 50, quindi c'erano i tedeschi contro gli inglesi e viceversa. Invece, quali sono gli altri personaggi e come sono rappresentati? Che cosa insegneranno? Diciamo che qui il background dei personaggi è lo stesso, ovvero ragazzi di un quartiere di periferia di una grande metropoli. Potrebbe essere Londra. Speranza. Esattamente, la commedia originaria era ambientata appunto a Londra. Diciamo che qui, rispetto allo spettacolo The Kitchen, è molto più duro, questo qui anche nel linguaggio stesso e nella violenza dei personaggi. Il punto di forza di questo spettacolo è che appunto si alternano dei momenti di grande violenza, veramente momenti molto duri tra i ragazzi, a momenti di proprio comicità, come possono essere comici, ironici, gli adolescenti appunto di qualsiasi epoca e di qualsiasi città. Quindi gli altri personaggi chi sono? Gli altri personaggi sono altri, faccio i nomi degli attori: Luca Vagliano, Gabriele Baio, Giorgio Regali, Giovanni Prosperi, Carlo Zanotti, io, Nicola Nicchi e me ne dimentico uno, Daniele Parisi. Quindi una classe maschile. Sì, siamo tutti maschi, sì. Allora, fino a quando siete qui al Teatro Italia, poi andrete a Brescia il 30 e il 31, in che teatro? Allora, fino al Teatro Italia, fino a quando? Fino al 7 marzo al Teatro Italia, poi 30... Di Roma? Di Roma, sì, esatto. E poi il 30 e il 31 siamo al Teatro Stabile di Brescia. Oh, nessuno chiama me Romero di merda. Sì, no, no, nessuno lo chiama me. Tutti ti chiamano Romero di merda. Vabbè, ora sì, ma prima no. Cartellone. E adesso andiamo a Roma, al Teatro Palladium, dove lunedì alle ore 20 si svolgerà un concerto particolare, Culture Migranti. Prima alle 20 ci sarà Ricordi Lontani, oggi il teatro nascosto, il teatro reportage, ricordi di guerra ed oppressione, di viaggi della speranza per una vita migliore in un paese sconosciuto. Poi invece, dopo una serie di interventi, alle 21:15 si inizierà con un concerto, Trasmigrazioni, oggi. Odio, memoria, convivenza. Ricordiamo allora Culture Migranti alle 20 al Teatro Palladium di Roma lunedì 1 marzo. E adesso invece ci occupiamo di un'artista, anzi di una promotrice d'arte, una delle più importanti nella storia dell'arte figurativa, Peggy Guggenheim. Anzi, fino al 30 maggio nello spazio espositivo Arca, Chiesa di San Marco a Vercelli, è allestita proprio una mostra intitolata Peggy e Solomon Guggenheim, le avanguardie dell'astrazione. Terzo momento di un percorso che completa un grande progetto espositivo iniziato nel 2007 e ha portato a Vercelli 80.000 visitatori nel giro di poco più di 2 anni, esposti oltre 50 capolavori provenienti in gran parte dal museo newyorkese. Ricordiamo questo bellissimo museo di Peggy Guggenheim con questa scala che ruota, che è fantastica. Quindi 50 capolavori da Cézanne a Seurat, da Braque a Matisse, da Kandinsky a Mondrian, fino agli artisti italiani amici di Peggy, come Emilio Vedova e tanti altri ancora. Il curatore Luca Massimo Barbero è al microfono della nostra Adriana Fracchia. Qual è il criterio ispiratore di questa terza esposizione in questo ciclo? Essenzialmente questo, diciamo, trittico delle mostre a Vercelli con la Guggenheim è completato dall'introduzione, devo dire la grande novità, della figura dello zio di Peggy, Solomon al Guggenheim, forse più noto non come persona, mentre Peggy ha una grande biografia ed è piuttosto nota, ma come colui che ha pensato il grande edificio di Frank Lloyd Wright a New York come museo. Quindi abbiamo pensato di unire due passioni, una nota, quella per l'avanguardia dell'astrazione, questo è il titolo in fondo della mostra, una nota da parte di Solomon e l'altra forse meno nota da parte di Peggy, perché si associa al nome di Peggy generalmente più al surrealismo. E quindi è un percorso non didattico ma sicuramente cronologico con dei capolavori per almeno interrogarsi, non dico per capire quella che è la nascita della pittura astratta. Ecco, si tratta di una cinquantina di capolavori in gran parte provenienti dal museo newyorkese. Sì, la mostra apre con Paul Cézanne, quindi il padre di ogni possibile ismo degli inizi del secolo, il padre del cubismo in un qualche modo, e sulla stessa parete, devo dire, un susseguirsi abbastanza curioso e fitto di capolavori, due opere di Seurat e un'opera di Matisse. La prima sala è proprio dedicata ai grandi movimenti d'avanguardia, per cui il cubismo con Braque o ad esempio l'inizio dell'orfismo con Delaunay, quindi un balla e poi l'espressionismo con un capolavoro di Franz Marc. L'idea è proprio quella di far capire come entrambi i Guggenheim collezionassero in modo Solomon molto più numericamente alto, Peggy in modo più selettivo, in modo però quasi esaustivo ogni movimento della pittura astratta dall'inizio del secolo, addirittura dalla fine del XIX secolo per quanto riguarda Seurat, e si arriva fino al dopoguerra, quindi si prosegue con tre assoluti lavori fondamentali di Mondrian e poi ancora insomma con le grandi astrazioni di Léger, quattro Kandinsky che illustrano proprio il modo in cui Guggenheim collezionavano questo grande maestro. Insomma, la mostra è una, io la definisco una passeggiata straordinaria attraverso proprio questi capolavori che per la prima volta dialogano insieme nello stesso spazio e che a Vercelli trovano, come dire, un modo, devo dire, molto fortunato di dialogare proprio anche in contrasto o in assonanze tra loro, fino appunto al Cobra o fino al gigantesco dipinto di Vedova. Qualche battuta conclusiva sulla scelta di questo titolo, Le avanguardie dell'astrazione. Il titolo Avanguardie dell'astrazione nasce proprio da una, come dire, un'idea leggera da un lato, cioè la frase forse più nota di Peggy quando aprì la sua galleria Art of the Century a New York nel 1942, dicendo: per dimostrare la mia imparzialità nei confronti dei due movimenti principali indossai un orecchino di Tanguy per il surrealismo e un orecchino di Calder per l'astrazione. Calder è presente tra l'altro proprio in questa mostra con un lavoro straordinario. Dall'altra parte è anche uno spero stimolatore, questo lo dovrà dire il pubblico, di curiosità, perché definire il concetto di astratto ancora oggi è piuttosto difficile, quindi c'è questo movimento che sia Solomon che Peggy definivano centrale del XX secolo, e allo stesso tempo c'è anche poi nella seconda parte della mostra quello che Peggy giudicava e pensava fosse astratto, cioè la nuova pittura di gesto. E quindi devo dire che spero generi nel pubblico anche degli interrogativi in senso positivo. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. E adesso andiamo a Roma, al Museo della Rapacis, dove si è inaugurata questa settimana la mostra dedicata a Fabrizio De André, che sarà allestita fino al 30 maggio. Quindi c'è tempo per tutti i turisti che vengono a Roma per vedere questa splendida mostra. Più che altro si tratta di un'esposizione multimediale. Buongiorno Pepi Morgia, organizzatore della mostra. Buongiorno, sono il cura, uno dei curatori. Uno dei curatori. Allora, che cosa succede alla Rapacis? A parte vedere questo bellissimo monumento. Sì, esatto. Sotto il monumento c'è la mostra dedicata a Fabrizio De André. È una mostra che noi abbiamo già portato, abbiamo debuttato a Genova e poi è andata a Nuoro e ora tocca a Roma. È un percorso di immagini, suoni, cimeli dedicati a Fabrizio, ma non è una mostra, diciamo, storica, no? Solo fotografie e basta, c'è proprio molta multimedialità con lo Studio Azzurro che l'ha allestita. Gli altri curatori sono Guidarari per le fotografie, io mi sono interessato dei tarocchi, che i tarocchi sono quelle carte che abbiamo usato per la scenografia di Fabrizio De André, che l'abbiamo viste durante i concerti al Brancaccio di Roma, per esempio, di cui abbiamo fatto un video. Vincenzo Mollica ha curato tutte le riprese, c'è il blob di immagini dalle teche Rai e Vittorio Bo la bibliografia. Quindi, insomma, si può conoscere finalmente. Stanze, esatto, quattro stanze che raccontano il percorso di Fabrizio De André, uomo, perché c'è anche la letterina, per esempio, che lui scrisse da bambino a Gesù Bambino per farsi portare i regali, dicendo che era stato un po' cattivo, ecco. Fino ad arrivare cimeli di dischi, autografi ai genitori, spartiti, cose particolari. Insomma, un modo per veramente far rivivere questo grandissimo cantautore italiano che, anche se è scomparso, è sempre dentro i nostri cuori. Ricordiamo, fino al 30 maggio al Museo della Rapacis di Roma, Fabrizio De André, la mostra, un evento non solo espositivo ma anche multimediale, è un modo anche per visitare questo bellissimo monumento per chi viene da fuori città, da fuori Roma. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it, che potete riascoltare questo programma sul nostro sito www.radio24.it. Un buon weekend, una buona giornata a tutti da Elisabetta Fiorito.